passi da me. Hai fatto, ti aspetto quando vuoi. Dimmi perché. È nuova la scusa che mi dai. E mi dirai passerà, passerà. Tutti gli errori già fatti con te. Che so già. Non credo sai che un giorno qualcosa cambierà. Mai dire mai, ma tutto è impossibile fra noi. Dimmi che logica ha questa tua bocca che fugge alla mia. Se l'avrà, parla chiaro se puoi, dimmi quale sarà il futuro che dai ad ognuno di noi. È difficile, sai, fare a meno di te. Me ne vado se vuoi, tanto richiamerai. Ma se lo vuoi tu, sto un po' di più per parlare di noi, per uscire dai guai. Passi da me. Aspetto quando vuoi, dimmi perché. È nuova la scusa che mi dai. E mi dirai passerà, passerà. Tutti gli errori già fatti con te. Che so già. Non credo sai che un giorno qualcosa cambierà. Mai dire mai, ma tutto è impossibile fra noi. Dimmi che logica ha questa tua bocca che fugge alla mia. Se l'avrà, parla chiaro se puoi, dimmi quale sarà il futuro che dai ad ognuno di noi. È difficile, sai, fare a meno di te. Me ne vado se vuoi, tanto richiamerai. Ma se lo vuoi tu, sto un po' di più per parlare di noi, per uscire dai guai. Também.